Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano, buonasera. Oggi parliamo di un tema direi di estrema attualità e di estrema importanza per la realtà italiana. Parliamo di università e lo facciamo in base a due libri, il primo di Andrea Graziosi, il secondo di Lodovico Festa. Andrea Graziosi è professore di storia contemporanea all'Università di Napoli. Buonasera professor Graziosi. Buonasera, buonasera. Lodovico Festa è giornalista, editorialista, analista politico. Buonasera Festa. Buonasera. Andrea Graziosi ha scritto per Il Mulino L'Università per Tutti, riforme e crisi del sistema universitario italiano, mentre Lodovico Festa con Adriano De Maio, già rettore del Politecnico di Milano, ha scritto Sotto le ceneri dell'università, una riforma necessaria, quasi impossibile. Ecco, il testo di Graziosi è un testo che parla molto dal profilo anche storico delle progressive riforme che sono state fatte in Italia negli ultimi anni, riforme che in gran parte hanno mancato l'obiettivo. È questo il suo giudizio, professor Graziosi? Sì, direi senz'altro di sì, nel senso che hanno mancato l'obiettivo e anche difficile a dirsi, nel senso che si sono posti degli obiettivi forse sbagliati o in parte sbagliati, perché alcuni degli obiettivi voluti sono stati senz'altro conseguiti. In Italia si è cercato di costruire una grande università di massa a partire dagli anni 50, fine anni 50, e ci si è riusciti, si è passati da 200.000 studenti a quasi 2 milioni di studenti, da poche migliaia di docenti a circa 60.000 docenti. Si è deciso di costruire università in tutte le regioni per eliminare quelle che erano avvertite come ingiustizie, e queste università regionali si sono costruite. Non c'è regione italiana che non abbia la sua università oggi, ancora negli obiettivi della pianificazione degli anni Ottanta ci si poneva come obiettivo di avvicinare gli studenti alle università e le università agli studenti. Quindi direi che più che di obiettivi mancati si può parlare di obiettivi nemmeno sbagliati, perché di un'università di massa, di una diffusione della cultura, dell'istruzione superiore c'era bisogno, di obiettivi parziali. Ecco, perché in fondo l'università, il vero problema è che sta mancando l'obiettivo di formare veramente una classe dirigente, una classe di elite, una classe di persone capaci di rispondere alle esigenze di un paese moderno. Quindi un'università che si è allargata, è diventata un'università di massa, però è anche perso, non ha acquistato quella qualità di insegnamento che sarebbe necessaria. Esattamente, questo è il punto, cioè si è passati da un'università diciamo di elite, ma che era già su un modello superato e che quindi non può essere difesa. Una vecchia università italiana è un'università superata rispetto ai nuovi modelli di università di ricerca americana. Si è costruita un'università di massa di cui c'era bisogno, per cui ripeto non è criticabile in sé l'obiettivo questo, lo si è fatto senza tenere conto che se si fa un'università di massa bisogna allo stesso tempo garantire che esista anche un'università di elite, che non sia più una vecchia università di elite in cui la selezione era sostanzialmente fondata sul censo, ma gli va sostituita un'università di elite fondata su una selezione di merito e internazionalizzata. Ricordiamoci, l'università italiana di elite tradizionale era un'università strettamente nazionale. Le grandi università di ricerca che esistono nel mondo sono tutte università internazionalizzate. Quindi l'Italia, diciamo così, ha perso un'università tradizionale nazionale di elite basata sul censo senza acquistare il nuovo modello di research university, università di ricerca internazionalizzata, che è il modello vincente del mondo contemporaneo. In questa prospettiva l'università ha bisogno di riforme, riforme che sono state attuate negli ultimi anni pur con obiettivi diversi, e è significativo che il sottotitolo del libro di Lodovico Festa, scritto con Adriano De Maio, Sotto le ceneri dell'università, sia una riforma necessaria, quasi impossibile. Lodovico Festa. Sì, secondo me noi abbiamo perso il vero appuntamento con la modernizzazione fra il 65 e il 66. Con la legge Guio 23-14, quando il centrosinistra, ma anche con una qualche intesa con il Partito Comunista, allora c'erano Rossana Russanda e Luigi Berlinguer che seguivano le cose all'università, avevano attrezzato una riforma abbastanza moderna, insomma basata sui dipartimenti, tre livelli di titolo. E questa cosa qui si è interrotta nel 68, diciamo così, per l'incapacità del ceto politico e anche delle classi dirigenti di reggere la ribellione giovanile e per il subentrare di un sostanziale regime di corporativismo e sindacalizzazione dell'università. Da allora in poi tutto è andato a rotoli, con sì, pur con tentativi, con poi naturalmente la nostra università è un'università che viene da lontano, dal 1100, eccetera, quindi c'ha grandissime aree di cultura, di intelligenza, di ricerca, eccetera, però dentro un corpo che ha perso, diciamo, una logica moderna, insomma, è un grande corpaccione corporativo in cui il CUN, il Comitato Universitario Nazionale, è quello che definisce, diciamo, gran parte delle regole in modo corporativo, in cui l'autonomia degli atenei si è man mano trasformata. Questa cosa qui adesso si tenta di metterci mano con qualche difficoltà. Il centrosinistra non ce l'ha fatta alla fine degli anni 90, ha fatto una riforma, diciamo, di razionalizzazione senza dare fastidio alle corporazioni, aumentando alcuni livelli di liceizzazione delle università. Adesso si tenta di farlo. Secondo me i punti su cui bisogna operare sono l'autonomia degli atenei, la separazione fra i consigli di amministrazione e i senati accademici e l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Ecco, proprio questa abolizione del valore legale del titolo di studio è uno dei punti forti del libro, appunto, scritto da Ludovico Festa con Adriano De Maio. È veramente una misura che può essere risolutiva, per quanto possa essere risolutiva una misura di questo tipo, ma una misura in fondo abbastanza semplice da prendere. Come mai se ne parla ogni tanto, ma su questo fronte non si è mai fatto nulla, Ludovico Festa? E appunto perché noi siamo di fronte, diciamo così, a un sistema di corporazioni in cui le corporazioni prevalgono sulla capacità delle classi dirigenti, anche del ceto politico, di scegliere strade di modernizzazione, per cui ogni volta che si scontra con le corporazioni e queste alla fine impongono la loro volontà. Abolire il valore legale del titolo di studio significa far competere gli atenei, significa introdurre un principio di autonomia radicato sulla competizione, e questa è la base, l'unica base possibile per risanare l'università. Ecco, su questo fronte vorrei sentire il professor Graziosi, qual è la sua posizione? Ma io devo dirle che non sono molto d'accordo, mi spiego. Penso anch'io che il valore legale del titolo di studio per anni ho vagheggiato, desiderato la sua abolizione, ma se uno studia la questione da vicino, a parte che non è possibile, per il semplice motivo che tutti gli accordi di riconoscimento fra stati europei del valore dei titoli sono basati sul loro valore legale, cioè una laurea italiana vale nell'Unione Europea perché è riconosciuta dallo Stato ed ha un valore legale, quindi abolire i valori legali semplicemente è una soluzione non praticabile. Il problema è trasformare il valore legale in un requisito minimo garantito dallo Stato. Cioè lo Stato deve garantire che un valore, un titolo rilasciato dall'università ha un valore legale minimo, e poi deve, come già oggi le imprese sono libere, anche lo Stato, perché ricordiamoci che il valore legale vale per lo Stato, ma un'impresa è liberissima di valutare la laurea della Bocconi diversamente da un'altra, che anche le amministrazioni statali e gli enti pubblici siano liberi di porre il possesso di un titolo legale di studio semplicemente come requisito minimo. Detto questo, io sono molto d'accordo invece sulla questione dell'autonomia, ma a me sembra che le soluzioni prospettate e praticate da quella, diciamo, di Ruberti negli anni 80 al corrente disegno di legge non diano in realtà risposta a questo, perché l'autonomia degli anni 80 è stata di fatto un'autogestione di fondi e come tale non era assolutamente autonomia. Anche oggi non c'è autonomia perché le università italiane restano di fatto parti di un sistema universitario pubblico, si chiama il sistema universitario nazionale, non hanno diritto di scelta dei loro studenti di fatto, non hanno diritto di dare salari diversi ai professori, eccetera, eccetera, e quindi non competono assolutamente ancora in un mercato, e costruirlo è molto difficile. Io sono molto d'accordo invece sul fatto che il Senato accademico e i consigli di amministrazione debbano avere assolutamente diversi poteri, i senati accademici devono avere un supremo potere su ricerca e didattica, ma nell'ambito di paletti finanziari stabiliti da consigli di amministrazione autonomi e non eletti dai professori stessi. Mi permetto un'ultima nota sulle corporazioni, bisogna intendersi questa storia del valore legale delle lauree facili, non sono come dire, difese dalle corporazioni solo, sono anche richieste dalle famiglie. Io sono molto più pessimista. Ecco, in questa prospettiva, come diceva Ludovico Festa, in fondo il 68, al di là dell'aspetto rivoluzionario, ha rappresentato una conservazione dei poteri e del potere, e l'università è ancora un luogo di potere in cui professori, rettori cercano di difendere il loro potere, magari allargandolo, usando un'autonomia che però negli ultimi anni è stata usata più per fondare nuovi corsi di laurea, per incrementare in fondo l'ambito di intervento, che non per rispondere alle esigenze di una formazione di qualità. Ludovico Festa. Sì, ma io volevo tornare un momento sulla questione dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, perché il punto è quello, cioè sì, si può anche chiamarlo livello minimo di valore legale, eccetera. Il punto è introdurre nello Stato, che fra l'altro, come si dice, controlla circa il 50% dell'attività economica del nostro paese, nelle professioni eccetera, una competizione fra titoli di laurea diverse, perché questa è la base per costruire un meccanismo di competizione fra atenei, e questa è la base che funziona per esempio in un regime come quello della Gran Bretagna eccetera, che pur fa parte dell'Unione Europea, perché questa è la base anche appunto per spezzare quel blocco corporativo in cui ci sono dentro fino al collo, naturalmente, oltre alla ribellione giovanile che voleva studi facili dietro slogan rivoluzionari, anche le famiglie con un certo tipo di approccio al titolo di studio. È lì che si rompe, diciamo così, il meccanismo che blocca le nostre università, è lì che si trova la chiave per intervenire sul sistema, non vedo altre possibilità. Grazie Ludovico Festa, potremmo parlare di università ancora a lungo, i temi sono certamente tanti e forse per approfondire è bene leggere questi due libri. Ve li ricordo: Andrea Graziosi, Università per tutti, Riforme e crisi del sistema universitario italiano, edito dal Mulino, sono 176 pagine per 13 euro, mentre Ludovico Festa insieme ad Adriano De Maio ha scritto Sotto le ceneri dell'università, una riforma necessaria quasi impossibile, Boroli editore, poco più di 200 pagine per 14 euro. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione, l'appuntamento è per sabato prossimo.